Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, dopo la prima giornata di riposo, stasera si riparte da Portogallo-Repubblica Ceca, primo quarto di finale. Passibile dunque di tempi supplementari e di calci di rigore. Nel qual caso, come insegna una tabella pubblicata stamane dalla stampa, i cechi potrebbero far valere la loro tradizione dal dischetto. 3 volte su 3 hanno vinto ai calci di rigore, a cominciare dal 1976 e dal cucchiaio di Panenka. Quello fu l'anno in cui furono istituiti. È vero però che il Portogallo, l'unica volta che è arrivato ai rigori, in un quarto di finale del 2004, ha eliminato l'Inghilterra. 13 in totale sono sino a qui nella storia degli europei le sfide finite dal dischetto del calcio di rigore. All'Italia ha toccato 3 volte, nell'80 perse 9-8 dalla Cecoslovacchia, combinazione, nella finalina per il terzo posto. Nel 2000 batté l'Olanda 3-1 con i miracoli, con il cucchiaio di Totti e i miracoli in serie di Toldo. Nel 2008 invece fu eliminata ai quarti di finale dalla Spagna. Ieri giornata di sosta in campo, stamane di conseguenza sul giornale, su Repubblica, per Antonio Di Poli, nel critico televisivo e autore di una delle rubriche più divertenti, Euroschermaglie, sulla materia. Rubrica che crea dipendenza, insomma, sicché stamane è stata una piccolissima delusione non trovarla. Mi sei mancato molto, Antonio, buongiorno. Non parliamo di dipendenza, no, era davvero dopo una sosta, anche per riflettere, anche per un momento di riflessione su quanto sta avvenendo, ma il punto è che ieri è andato in onda davvero poco rispetto a tutto quello che ci dà gioia e materiale in questi giorni, a cominciare dalle partite vere e proprie senza le quali davvero certo non si resisterebbe. Certo, sì, gioia certamente sì, citazioni, io ne ho messo da parte un po' di ritagli di questa rubrica tua di questi giorni e ho tirato fuori. Io prima vorrei sentire da te qual è secondo te è stato il top fino adesso, cioè qual è la comicità involontaria irresistibile in assoluto, e poi magari ne cerchiamo altre. Io sono un amante delle piccole cose che si intrufolano poi nella programmazione, e direi che mentre tutti poi anche via Twitter o cose simili si sono versati fiumi di inchiostro elettronico il giorno in cui Fulvio Collovati, per esempio, ha cominciato a chiamare sovietici i russi, ed era proprio il giorno, peraltro la partita si svolgeva nell'anniversario della dichiarazione di indipendenza e tutto. Io invece amo le piccole cose, e secondo me una cosa strepitosa come vedere l'inizio di un servizio lanciato da studio e vedere Saverio Montigelli che si avvicina a un citofono e indicando con toni gravi la casa dice: in questa casa abita lo zio di Cesare Prandelli. Ecco, io non sono riuscito a, ho avuto una reazione simile alla tua, e cose di questo genere mi piace immaginare come chicche, ed eravamo ancora forse neanche qualificati, eravamo già passati, ma non oso pensare a dove alla finale se l'esaltazione appunto dovesse prendere, certo. ma siamo qui che aspettiamo finito. Siamo pronti a tutto, ovviamente. Siamo qui, siamo pronti a esplorare altri gradi di parentela, no? Perché in fondo uno zio è ancora abbastanza prossimo, direi, quindi per una finale ti puoi immaginare che cosa può succedere. Io prendo a prestito qualche citazione tua, citazione testuale loro, no? Ma fatta citazione. Bruno Gentili: Antinelli, mi confermi che al rientro in campo non ci sono cambi nella squadra azzurra? Antinelli: lo confermo, però Buffon ha cambiato le scarpe. È testuale ed è un genere anche questo, no? Volendo, perché, ma in materia scarpe e dintorni, dice: no, niente di particolare per lui, ha solo un problema al calzettone, ha detto un punto Gianni Bezzi. I problemi ai calzettoni sono abbastanza inediti, credo, nella storia non solo degli europei, ma credo proprio del calcio. Però hai visto mai che ci possa essere un problema al calzettone? Senti, se vuoi ti faccio riascoltare velocissimamente uno di quei sovietici, perché poi magari sì, sovietici. Segnali di risveglio da parte del dei sovietici, in questo caso hai visto mai dare spazio a Kerzhakov, perché è sulla fascia, perché è sulla fascia che la Polonia deve temere la squadra sovietica. Lewandowski in profondità sull'assist di Obraniak. Sì, insomma, lì gli è scappata, però Antonio, gliene è scappata un'altra più seria in un fuori onda, mi pare. Non è un europeo fortunato per Collovati. Allora, io non mi soffermerei molto su quello sguardo intenso nel vuoto, evidentemente non mi soffermerei sul fatto che non abbia cantato l'inno, ma era uno sguardo di un'intensità, di una concentrazione enorme. Lo sguardo intenso nel vuoto, Antonio, questa è un'altra che avevi citato anche tu, Sì, sì, sì, sì. Lo sguardo intenso nel vuoto è una somma di sensazioni che vengono trasmesse al telespettatore, che giustamente però è lì per la partita e magari su alcune cose passa sopra, ma ormai è davvero molto difficile perché c'è un esercito di gente che sta attenta. Lo sguardo, appunto, intenso nel vuoto mi sembrava una cosa quasi letteraria. Peraltro prima hai citato una cosa ai rigori per un terzo posto e mi pare che Collovati centrasse. Collovati con gli europei non si prende. Perché fu lui a sbagliare quel rigore al 9-9. Oddio. Se non ricordo male. Ricordi benissimo. Era una finale per il terzo posto, non era una cosa grave. Mi sembra più grave che gli sia scappato un giudizio sulla Grecia, mi pare, e da allora, un fuori onda, per la verità. E da allora però non l'abbiamo più sentito, c'è un giallo Collovati a questo punto. Ma a me lo danno rientrante in uno di questi quarti di finale, adesso vediamo quale, però è chiaro che non ha fatto molto piacere. Ora, io sui fuori onda in questo modo ho un'opinione, sì, che condivido, senza seppellirla, esatto. Così, così. Cioè non ci dovrebbero essere, in ogni caso chi è da quelle parti ed è in zona microfoni, credo che non gli costi davvero nessuna fatica fare un minimo di attenzione in più. Però ha rivolto un epiteto pesante alla squadra della Grecia, che peraltro è una delle squadre che riscuotono più simpatie in assoluto in tutta Europa in questo momento, e domani sera ci sarà il tifo collettivo. Ecco, quindi Collovati, come dire, se proprio doveva fare una gaffa, poteva almeno riferirsi a un'altra squadra e sarebbe stato un po' più tollerato. Non c'è dubbio. Non è un europeo fortunatissimo per lui. Lui che poi nasce appunto dallo sguardo intenso del vuoto, cioè da questa voglia comunque di dire qualcosa di particolarmente forte quasi sempre. Certo. Come dire, venendo da una bellissima storia di calciatore in cui non era strettamente richiesto. Certo. il crash che deriva da queste due cose poi dà origine a queste telecronache. Facciamo così, Antonio, dato che Collovati è un vecchio amico esatto, e allora facciamo che vada come nell'82, cioè che ha fatto una qualificazione, non lui ma insomma tutta l'Italia, un po' da dimenticare, come dicono oggi i telecronisti bravi, no? E da stasera, sì, perché stasera è in postazione, questa è appena arrivata adesso. Vedi, telecronaca di Alberto Rimedio e commento di Fulvio Collovati. Torniamo ad Antonio Di Polline, a una delle sue citazioni. Immagino che anche questa sia... No, questa non è una citazione, questa è una riflessione tua. In ogni caso, tutto ci si poteva aspettare dalla vita, ma non di camminare un giorno per strada guardando su uno smartphone una rubrica video intitolata Le riflessioni di Amedeo Goria. L'ho fatto, era anche un marciapiede al sole, c'erano 38 gradi e io mi sono detto ma cosa diavolo sto facendo, però ero curioso di questa applicazione che era di Raysport, che era appena uscita, e vedendo uno spezzone video di 1:40 che si chiamava Le riflessioni di Amedeo Goria, come si fa a resistere? Certo. Ho cliccato immediatamente e me lo sono guardato, e a quel punto mi sono quasi sentito in dovere di richiamarmi con la massima umiltà lo scopigno con Nicolai ai tempi. Avrei potuto immaginare tutto nella vita, tutto mi sarei aspettato dalla vita, meno che da vedere Nicolai via satellite quando sostituì Rosato al mondiale del 70. Antonio, perché secondo te la Rai nel suo insieme i componenti della spedizione, dello staff, eccetera, tendono tutti ad andare un po' sopra le righe, perché questa mi sembra che sia la cifra, no? La chiave. Cioè, poi c'è chi ha le basi, c'è chi non le ha, come dicevi prima, questo è un altro discorso, ma è tutta una ricerca. Credo che la comicità involontaria venga tutta o in buona parte da una ricerca di effetti speciali ad ogni costo, oppure non è così? Sì, no, è assolutamente così, e deriva dal fatto che questa, ahimè, ai noi, ai qualcosa, è una delle ultime occasioni in cui la RAI può gestire un evento di questo tipo in esclusiva, in diretta, avendo a disposizione tutto quanto. Questo porta sicuramente a un sovraccarico. Io, vabbè, scherzando, da qualche parte ho anche scritto: adesso hanno il problema di farsi notare da Sky tutti quanti in qualche modo per assumere. È una battuta, ma voglio dire, potrebbe rendere anche l'idea, perché il problema vero, adesso faccio un secondo serio, è che in questi anni, in questi ultimi anni, la Rai non ha avuto se non una partita di Champions alla settimana, che dall'anno prossimo non avrà più, né altro, per lavorare davvero sul calcio in diretta, sul calcio che conta, che è di altri. Ti ricordo, dall'anno prossimo non più nemmeno la Champions League, non più la Formula 1, con ogni probabilità neanche quei pochi Gran Premi. Cioè, chi è che in Rai investe sulla squadra sportiva, date queste le condizioni? Infine, ultima cosa, manca del tutto ormai la figura autorevole centrale che c'era anni fa, faccio un nome, Tosatti, per l'occasione, che in ogni caso, a cui in ogni caso ci si poteva ricondurre nei momenti di difficoltà. C'è un liberi tutti di un certo tipo, che assommato ai motivi di prima poi rende la situazione davvero, davvero complicata. Io qualche attenuante sono disposto a concederlo. Sì, certo, questo certamente sì. In questo poi magari, non so, faremo un bilancio di fine europeo, adesso più o meno siamo a metà, e non c'è dubbio che gli spunti esilaranti non siano mancati. Poi c'è anche qualche telespettatore, anzi più di uno, che si inferocisce perché sostiene che anche la qualità del commento, soprattutto del commento tecnico, è scadente. Ma lì credo che, e anche qui correggimi se sbaglio, credo che insomma, le prime scelte ormai se le portate via a Sky o Mediaset Premium, e con tutto il rispetto per quelli che ci sono, però si tratti di, se non ripieghi, comunque non di primissime firme, parlo di ex calciatori. Sì, non sono le prime firme, che sono appunto altrove, e a parte che altrove molti vengono anche criticati, e in genere non si è mai nessuno è mai del tutto contento dei commenti calcistici a memoria d'uomo, però cioè perfino Bruno Pizzol ieri lo hanno intervistato e una cosa diceva: ma guardate che quando facevo le telecronache io i giornali mi attaccavano, e come, non era quel paradiso che adesso sembra voi ricordando me. Quindi inquadriamo la cosa anche in questo ambito. E poi appunto seconde firme e disabitudine alle telecronache vere e forti di eventi importanti, come abbiamo detto prima, non c'è allenamento, non è stato possibile farlo in questi anni, e sarà del tutto impossibile in futuro. Chiuderei con una notazione su Twitter, perché ho visto che tu questa rubrica la condisci ogni tanto, la condisci, la integri, la vai di interpolazione di messaggi Twitter. Sì, perché francamente non se ne può più fare a meno. Io non sono favorevolissimo alla cosa in sé, ma devo ammettere che dando un'occhiata, soprattutto mentre si svolgono le partite, ai commenti che chiunque fa in diretta, e avendo con molta pazienza la volontà di discernere il grano dall'olio, come diceva quello, certo. Cioè nel senso che l'olio cioè escono migliaia di stupidaggini banali o comunque cose ripetute, cose andanti. Poi dentro ci sono alcuni personaggi più o meno anonimi che piazzano battute clamorose. L'ultima che credo registrerò domani dice: sì. De Rossi, Balotelli è un ometto, come disse quella volta che il marito aprì l'armadio. È un po' complicata, ma a me è piaciuta molto. Bisogna pensarci un po'. Sì, penso anch'io. Non è di quelle immediate e fulminanti, esatto. è di quelle a scoppio ritardato, come diceva, esatto. Appunto quel. Vabbè non, avanti, non andiamo. Esatto. Ma davvero capita di cogliere commenti esilaranti e cose in diretta che a questo punto è abbastanza. Facendo una rubrica come la mia è abbastanza difficile ignorarle completamente del tutto. Ci sono alcune cose molto divertenti. È come essere, fai conto, in un bar sport clamoroso, pieno di persone a guardare tutti insieme la partita, certo. E si commenta a voce alta. C'è quello che magari ci ha dato già un po' troppo col bianchino e sì. Non dice cose, ma ci sono i due o tre tipi da bar che ti, certo. Ti diverte davvero stare ad ascoltare. È una versione modernizzata e oggi la modernità ci porta questo. Ci porta proprio lì. Antonio, domani ricominci, sì, Assolutamente. Molto bene, molto bene. Molto materiale. A domani sul giornale. Grazie, Antoine. Grazie a voi, ciao. A presto. Seedorf lascia il Milan. Lascio dopo 10 anni fantastici. Così Clarence Seedorf ha ufficializzato stamane l'addio al Milan insieme all'amministratore delegato Galliani. L'olandese ha spiegato che intende continuare a giocare per altre 2 stagioni e poi magari tornare al Milan con un altro. Con un altro ruolo. Una voce che arriva dall'Inghilterra. Beh, sentiamo Diamanti, che mi sembra di capire, potrebbe essere forse, perché adesso mancano 4 giorni ancora alla partita, ma potrebbe essere una candidatura. Se non in partenza, certamente come tra i primissimi ricambi per Prandelli. Diamanti. È una squadra forte perché la storia parla che siamo più forti. Però la storia non conta niente, quando ci sono le partite secche così, penso sia una grande battaglia con una grande avversaria come l'Inghilterra, che noi rispettiamo, ma sicuramente non abbiamo paura. Vabbè, l'ho detto 1000 volte, invidio tutto quello che riguarda il contorno, perché poi il calcio giocato, secondo me, con l'italiano è molto più bello e molto più forte. Però quello che riguarda il contorno, penso che siamo una 30 anni indietro. Una 30 anni indietro sono tanti, però insomma è un po' tranchant come valutazione, ma non è così campata in aria. Il contorno si intende tutto quello che c'è intorno al calcio. Beh, stamane per esempio ne è arrivata un'altra di notizie, sì, 12 arresti chiesti dal PM a Genova per i fatti di Genova-Siena il 22 aprile, per come chiamarlo, sì, fu chiamato lo spogliarello forzato, no? dei giocatori del Genova da parte degli ultra di riferimento. Il GIP, dopo aver esaminato le singole posizioni di questi 12 arresti, ne ha concessi 7 domiciliari, 3 con obbligo di dimora, per gli ultimi 2 non ha ravvisato esigenze di custodia cautelare. Sicuramente sarà un esercizio di dietrologia, ma il gol di Balotelli l'altra sera, scrive Stefano da Brescia, ho notato che nessuno del nucleo pensante della squadra, cioè Pirlo, Marchisio, De Rossi, Barzagli, si è affannato a corrergli incontro per abbracciarlo. Che sia già un po' isolato all'interno del gruppo è possibile, Stefano, o perlomeno non è da escludere. Leggo questo parere di Gian Piero Boniperti, qualcosina del calcio italiano ha rappresentato e di grandi calciatori, oltre a esserlo stato lui, ne ha visti. Dice testualmente: Mario Balotelli è un grande giocatore e farà una lunga carriera, va solo gestito bene. Certo, il problema è proprio quello, il problema è vedere se però sarà gestito, fino a che punto sarà possibile gestirlo, perché il tempo passa e la maturazione sui comportamenti tarda, ma come non tentare di ricorrere a un giocatore così? Poi a maggior ragione in una partita contro l'Inghilterra che secondo me evoca suggestioni particolari anche per lui e potrebbe per una volta motivarlo ancora di più, sperabilmente nel senso migliore. Luca Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Devo fare i complimenti per la splendida forma con quello che ho visto ieri sera a Sky. Vabbè. E anche quella di Chicchevani, cioè io onestamente non mi ricordavo fosse così bravo, così forte coi piedi. Volevo chiederle con un piede, Sì. Con un piede. Ma uno che basta però. Ah beh, certo, quando uno ha un piede come quello di Chicchevani è già una bella base di partenza. Niente, volevo chiederle solo una cosa che forse era meglio chiedere al signor Bellinazzo. Volevo chiedere, ma questa tecnica che sta utilizzando il Milan insieme al Genova, cioè io non riesco a capire che vantaggio trae il Genova da tutte queste operazioni. Potrebbe essere un modo per aggirare il fair play finanziario? Sicuramente qualcosa sotto c'è, Luca. Io però sono della sua forza, non se l'abbia male, nel senso che non sono in grado di capire che cosa. Io ho letto da qualche parte nei giorni scorsi che il Genoa ha tra proprietà, con proprietà, passaggi, eccetera, mi pare che superi i 100 giocatori. Mi pare che sia 103 il numero che ho letto. Adesso ammetta che ne abbia venduti due, okay? Siamo intorno al centinaio. Qualcosa che non torna c'è di sicuro. Poi dirle io che cosa esattamente, non so. Le convoco Bellinazzo al capezzale. Anzi, adesso come finisce il programma vado a vedere se domani c'è e lo precettiamo immediatamente per questa risposta che sarebbe in effetti interessante. Grazie Luca. Andiamo da Lorenzo, provincia di Barletta, allora sì, certo. Lorenzo, avevo un problema sul display. Mi dica Lorenzo. Buongiorno. Due cose, una la prendo da voi, cioè che questo è l'ultimo evento Rai, quindi praticamente sarà tutto a pagamento dei prossimi eventi calcistici a venire, cioè Brasile e Francia Europei 2016. Se non ho capito male, insomma, volevo chiedervi due. L'altra cosa, volevo un suo parere sulle due persone in particolare che sono in nazionale, che anche se fanno parte della mia regione, l'uno Cassano e di tutt'altra parte l'altro Balotelli, se non sembra più che altro un grido d'allarme se vengono convocati. Una persona che purtroppo per sua sfortuna ha avuto problemi di salute, diciamo è stata recuperata in extremis e poi si è stata convocata un'altra persona, Balotelli, che ha a suo modo problemi di salute mentale, perché voglio dire, non è normale che una persona di quell'età abbia queste disconnessioni del cervello così tanto spesso. E poi su Balotelli, se non le sembra che sia ampiamente sopravvalutato il valore di un calciatore, perché vado a onore, non so. Ma io senta, dai termini che lei ha usato, penso che sia lei innanzitutto a sopravvalutarsi su questo ho pochi dubbi. Poi che Balotelli sia un po' sopravvalutato da una parte e un po' sottovalutato dall'altra, il dibattito è aperto e penso che durerà per tanto tempo, almeno gliel'auguro, perché vuol dire che la sua carriera andrebbe avanti. E che sia sopravvalutato tecnicamente lo escludo. Non so se lei ha presente il fisico di O'Shea, come si pronuncia questo difensore che gioca in Inghilterra e che l'altra sera si è trovato a marcarlo in occasione del 2-0. Comunque è un armadio, ha due ante se bastano, ha delle braccia che insomma è meglio non trovarsene in giro, che ti trattengono da qualche parte. Questo ha preso Balotelli per la maglia e nel momento in cui Balotelli riesce a svincolarsi, fa la girata e poi lo lascia andare rallentando l'immagine, si è visto di quanto gli avesse tirato la maglietta, quindi che forza avesse quella trattenuta. Questo non ha fatto una piega e ha fatto quel po' di girata, insomma. Se le sembra un giocatore sopravvalutato, per carità, è libero di pensarlo. Stefano Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Volevo chiederle invece cosa pensava della valutazione dei giornalisti in generale, perché a parte gli strafalcioni che sentiamo, vediamo per gli europei, per dire, mi trovavo qualche settimana fa a Roma, ho sentito per radio diciamo Zeman che parlava, intervistato dai giornalisti, tutta la sua presentazione, e hanno fatto delle domande veramente incredibili, parlando di poteri oscuri o cose varie riferite al cinema, che non c'entravano niente. Mi chiedo, ma giornalisti come vengono scelti dalle varie testate o le varie TV? Ecco, volevo sapere cosa ne pensava lei rispetto a qualche anno fa, dove sembrava ci fosse più preparazione. Non penso, Stefano, non penso, e questo vale per qualsiasi testata, vicina e lontana. Ubaldo, provincia di Lucca, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzia. Io lo rispondere a quell'ascoltatore che parlava di Balotelli. Io ho avuto la fortuna di giocare dal vero tre volte, quattro. E, come diceva lei, è fortissimo. Se poi domani sera qualche inglese che lui già fa di sotto. Ubaldo, c'è una pessima linea. Lei non la pensa come chi l'ha preceduta, e quindi mi pare di capire che lei è convinto invece della forza di Balotelli. Io non lo sono poi così tanto, nel complesso del giocatore e del personaggio Balotelli. Lo sono dal punto di vista tecnico e fisico. Questo credo che basti avere gli occhi per vedere che questo è un giocatore che ha colpi da campione e che ha un fisico che gli permetterebbe, al condizionale, che gli permetterebbe anche di sovrastare gli avversari fisicamente. Non lo fa perché, o non lo fa ancora, perché è indolente, perché va a strappi, perché ha atteggiamenti strani, perché ogni tanto sembra che gli si fermi un relè, perché è sempre in agguato l'istante di follia, almeno quella è la sensazione che si ha, e purtroppo quella è una sensazione che ha riscontri, perché quest'anno nel campionato in Premier League di istanti del genere ce ne sono stati, quindi non è un sospetto, una maldicenza, è qualcosa che si è già verificato, e l'importante è che adesso non si verifichi qui, insomma. Io credo che lui davanti domenica abbia un'occasione storica. Lui è convinto di essere, e lo ha detto, no? Perché quando parla lo dice. Lui è convinto di essere il più grande giocatore del mondo, e si è fatto questo abito mentale, si è autoconvinto di ciò, e questo lo porta evidentemente ad avere una visione un pochino distorta di sé, di quelli che gli stanno intorno, degli avversari, eccetera. Però è una distorsione mentale che nel caso di domenica sera potrebbe anche portarlo contro un calcio che conosce e in un posto in cui, cioè contro gli inglesi, lui gioca in mezzo a loro, lui è ogni tanto protagonista là, ma anche in negativo, potrebbe fargli scattare la molla di insegnare una volta per tutti agli inglesi, mostrare una volta per tutti agli inglesi chi è davvero Mario Balotelli. Questa è la speranza, poi può succedere di tutto. Giancarlo ha chiamato da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Senta, no, a parte sono d'accordo con lei per quanto riguarda Balotelli, eccetera, è un rischio che ovviamente corriamo, perché lui verrà sicuramente provocato, e ho visto gente molto più calma di lui perdere le staffe, perciò lui le perderà sicuramente durante la partita diventerà difficile e lui perderà le staffe. Ma io volevo parlare un attimo di Thiago Motta, cioè voglio dire, da tanti mi chiedo perché questo giocatore sta a mezzo a campo, non è un incontrista, non è un grande colpitore di testa, non è un veloce, sta lì, ogni volta che prende la palla la passa dietro. Cioè, nessuno ne parla mai, perché in mezzo al campo non esiste. Perché dobbiamo regalare un giocatore alla squadra avversaria? Ma secondo me, Giancarlo, vede che è proprio bravo Thiago Motta, perché non si fa notare. Cioè, lei non l'ha ancora notato. Io le dirò che c'è qualcun altro invece che magari si è accorto, no, delle qualità di Thiago Motta, a cominciare da Prandelli, ma non è l'unico, non è proprio l'unico. Perché è uno di quei giocatori, per l'appunto, che passano discretamente inosservati, è uno di quelli che non amano la ribalta della giocata ad ogni costo, però è uno che il posto in mezzo al campo lo tiene. Poi che sia un fulmine di guerra, no. Che eccella in qualcosa, no. Però fa e ragiona su cose ad un discreto, se non alto livello, su tutta la gamma, e quindi sono i giocatori più preziosi. Poi ci sono i momenti di forma più o meno brillanti, ma insomma, che sia questo uomo in meno mi sembra un po' eccessivo, francamente. Bologna, da Bologna Franco, buongiorno. Salve Garanzini, io mi volevo ricollegare al discorso di prima dei giornalisti Rai. Ho visto uno spezzone, era durante la partita con l'Irlanda, già con Mazzocchi. Mazzocchi si chiama, penso, quel ragazzo pelato, che domandava com'è che c'erano sempre meno tifosi italiani rispetto alle altre squadre, rispetto agli irlandesi, e aveva addotto una serie di motivazioni, ne avrà detti una cinquantina, ma secondo me non ha detto quella che era la più idonea, che secondo me probabilmente gli italiani, gli operai, gli impiegati hanno un potere d'acquisto dimezzato rispetto agli irlandesi. A questo punto mi domando se non le sanno le cose o se fanno finta di non sapere. Ma io mi auguro, nel caso che ha fatto lei prima, e in nel nome che ha fatto lei prima, cioè parlando di Mazzocchi e parlando di questa frase che ha ripetuto già più di una volta, che trovo di una infelicità totale e assoluta, mi auguro che non ci abbia pensato, insomma, che non abbia riflettuto, che quindi sia involontaria. Credo che sia l'attenuante massima che gli si può concedere in un momento sociale come questo. Adolfo, se non capisco male, da Campobasso, domanda, dice: ho notato che dopo 24 partite non c'è stato ancora né uno 0-0 né un calcio di rigore, come lo spiega? Qui è lunga la spiegazione. Quindi non ce la possiamo permettere se è lunga. È indubbiamente curioso, è certamente strano, lei ha ragione. L'assenza di 0-0 la spiegherei col fatto che, sullo sfondo c'è il fatto che ormai pareggiare è molto più vicino alla sconfitta, punti 1 e punti 0, che non alla vittoria, punti 1 e punti 3. E quindi questa è una base di partenza che ormai dopo tanti anni è entrato nel modo di pensare, di ragionare e di gestire le partite. Aggiungerei anche che non vedo grandi difese e quindi vedo difese scarse, abbastanza scarse o comunque non così blindate, e quindi un gol prima o poi almeno un gol prima o poi ci scappa sempre. Questa potrebbe essere una spiegazione. Un rigore c'è stato, per la verità, però Adolfo, l'ha tirato la Grecia, l'ha sbagliato la Grecia alla prima partita con la Polonia. Comunque poco, molto poco, ma non è che siano stati negati chissà che rigori, quindi vuol dire che i difensori stanno facendo molta attenzione. Noti anche come si comportano i difensori italiani, faccio per dire, no? Come questi poi sono ragionamenti che faremo magari dopo gli europei. Faccio un parallelo tra i comportamenti dei difensori azzurri, ripeto, in questo europeo, quando parte un calcio d'angolo o parte una punizione, e pensi a come si comportano le stesse pedine nel nostro campionato indossando le maglie dei rispettivi club o del rispettivo club in questo caso, e faccia dei paragoni e veda un po' se non c'è un ben diverso livello di severità arbitrale che suggerisce ai giocatori comportamenti un pochino più prudenti. Nicola Filippone e il 21 giugno, niente meno che l'inizio dell'estate. Il 21 giugno di Nicola Filippone. Sembra ieri. 21 giugno 1964. Al Santiago Bernabéu la Spagna si gioca il titolo europeo contro l'Unione Sovietica, campione in carica. Il commissario tecnico Villalonga sfida l'opinione pubblica schierando solo due giocatori, il difensore Zoco e l'ala Amancio, del Real Madrid, la squadra preferita nel regime di Francisco Franco, e puntando viceversa sul blocco del Barcellona, oltre che sulla classe cristallina di un trascinatore quale l'interista Luisito Suarez. La partita si mette subito bene per le Furie Rosse, a segno al sesto minuto con l'Azulgrana Pereda, ma il pareggio sovietico è immediato e porta la firma dell'attaccante Kusainov. Si va avanti in parità fino a 5 minuti dal termine, quando il centravanti del Saragozza Marcelino supera di testa il grande Yashin e fa esplodere di gioia Madrid, regalando alla Spagna il suo primo titolo internazionale. Edmondo ha chiamato da Foggia, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buonasera. La mia è una domanda lapidaria, velocissima. Probabilmente lo avete già ricordato. A livello di sfide ufficiali tra Italia e Inghilterra, ufficiali manifestazioni che contano, europei, mondiali, gironi di qualificazione, noi non affrontiamo l'Inghilterra, mi pare, dalla finale del terzo posto di Italia 90. È vero o non è vero? Certo che è vero. Sono 22 anni. A parte che questo, anche questa è una curiosità, perché è un po' raro che squadre forti... Fino a un certo punto, perché che l'Inghilterra sia una squadra forte negli ultimi 20 o 30 anni è molto, ma molto opinabile. Bello, insomma... Fascino sicuro. Dico, basterebbe questo a fare di questa partita, al di là di chi è più forte, che poi, insomma, lo deciderà il campo. Una cosa un po' curiosa, in 22 anni il calcio è cambiato, bisogna vedere come reagiscono le due squadre a livello di una sfida che non... sono 22 anni che non c'è. È d'accordo o no? Certo che sono d'accordo, cioè i numeri sono lì, le date sono lì a testimoniare quello, a confermare quello che lei dice. Pensi che nel frattempo è anche un po', soprattutto in questi ultimi mesi, mi pare che siano anche un po' cambiati i rapporti, non tanto di forze quanto di caratteristiche, perché oggi il catenaccio di cui una volta gli inglesi accusavano noi come se fosse stato un reato, adesso lo fanno loro. Credo che un calcio più prudente, più difensivista, più speculativo di quello di Oxon, sia difficile da trovare, perlomeno a un livello medio-alto, come qual è oggi la caratura dell'Inghilterra. Daniele Udine, buondì. Buongiorno, buondì a lei, Garanzini. Allora, le facevo un momentino una considerazione su Balotelli. Io sono presidente di una squadra di calcio di seconda categoria, mm-hmm, e le garantisco che gestire certi ragazzi più o meno dell'età di Balotelli è veramente difficile. E questi qui sono degli sconosciuti, no? È complicato, è veramente complicato. Gli stanno tirando la croce addosso a Balotelli. Povero, io non dico povero ragazzo, so che ha una pressione mediatica sportiva addosso incredibile. Io dico questo, non abbiamo bisogno di Carla Fracci in campo, abbiamo bisogno di Balotelli. Tutto qua. Sì, se si ricorda di comportarsi bene e di non sbroccare, no? come gli è accaduto spesso, anche con qualcuno, contro cui giocherà domenica. Perché con uno ha avuto degli avversari di domenica, ha avuto un problemino di una pedata in testa che gli ha tirato mentre l'altro era a terra e ha preso poi 4 giornate da prova TV. Con uno o due compagni invece di Manchester City ha avuto qualche problema serio in allenamento, di scontri poi più o meno sistemati con cordialità da tutta da verificare, insomma. Le variabili impazzite quando si parla di Balotelli creda che sono davvero tante. Nicola Degano scrive da Gorizia segnalando una pessima ricezione audio in quella zona, e questo è davvero un peccato. Giacomo Podestà scrive: non ho mai amato i commenti tecnici e a mia memoria rimpiango solo di quelli di Fabio Capello, e condivido perché una partita con Capello alla seconda voce, insomma, effettivamente era di un altro livello. Parlo sia di antiche esperienze direi a Tele Monte Carlo verso la fine degli anni 80, nella seconda metà degli anni 80, sia in tempi più recenti, quando Capello ha avuto un'esperienza Rai, mi pare abbastanza tra una squadra e l'altra. Capello adesso dice che saranno la Spagna e la Germania ad arrivare in finale, secondo lui. Dice: se proprio devo fare un pronostico, per me la Germania è una squadra molto forte, mentre la Spagna è quella che gioca il miglior calcio del mondo, ma certo si vede bene come gli manchi uno come Messi. Non ho ancora deciso per chi parteggerò, dice, tra Italia e Inghilterra, perché in fondo è normale, italiano lo è, ma l'Inghilterra l'ha allenata fino a ieri l'altro e più o meno gliel'ha levata di sotto il naso. O se l'è levata lui, ma perché era costretto a farlo. C'era Matteo Comes in regia, c'era Franco Piantarini in redazione. Buon pomeriggio a tutti.